cosa diffidare? Direi che il primo indice di sospetto è il prezzo particolarmente conveniente. Sono i prezzi civetta. Cosa accade? Che il consumatore poi non troverà quella videocamera a quel prezzo particolare, ma ormai in lui è scattato il meccanismo dell'acquisto. 8 volte su 10, secondo i nostri dati, completerà comunque l'acquisto, magari di un'altra telecamera, non proprio quella che aveva attirato la sua attenzione, e soprattutto ad un altro prezzo. Lo sconto, dicono gli esperti, è diventata la leva più forte per invogliare all'acquisto. Cose fanno pure male. Lo hanno dimostrato le code, le risse, addirittura registrate in America per il cosiddetto Black Friday, il giorno in cui tradizionalmente parte la campagna saldi prenatalizi, e in Italia in occasione di singole iniziative per il lancio di nuovi negozi o nuovi prodotti. Saranno i dati di gennaio a dirci però come sono andate veramente le cose, ci dice Sandro Castaldo, docente di marketing all'Università Bocconi. Bisogna aspettare i prossimi dati, perché siamo comunque a livello mondiale in un momento non facile, e abbiamo visto che anche nel nostro paese e in generale in Europa la tendenza a comprare in promozione, ad acquistare beni in promozione, sta aumentando in modo significativo, non solo per i beni durevoli come è capitato per alcuni piumini venduti con sconti molto forti a Milano, piuttosto che alcuni prodotti tecnologici scontati a Roma, che hanno creato delle grandissime code nei punti di vendita, ma la vendita e l'acquisto in promozione si sta sviluppando molto anche per il largo consumo. Per vedere l'effetto reale di una promozione bisogna misurare ciò che succede durante il periodo promozionale, ma anche durante il periodo immediatamente successivo. L'effetto boomerang ci può essere, ci conferma il sociologo dei consumi Vannico De Luppi. Credo che la crisi abbia spinto oggi le imprese a cercare di offrire al consumatore delle opportunità di risparmio, quindi una serie di promozioni, di campagne di sconto vengono fatte un po' da tutti, soprattutto le grandi catene distributive, e il consumatore ne approfitta perché oggettivamente è in una difficoltà, in situazione di difficoltà economica, di mancanza di risorse a disposizione per spendere come vorrebbe, quindi è costretto ad approfittare di queste occasioni che in questo periodo affollano il mercato, insomma. Quindi credo che sia un indicatore di maggiore razionalità del consumatore, che cerca di sfruttare al meglio le risorse di cui dispone, approfittando delle occasioni che si presentano sul mercato. Se ragioniamo sul consumatore medio, diciamo consumatore massa, sicuramente c'è questo problema di limitazione delle risorse, quindi se spende oggi, poi chiaramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, insomma, spenderà di meno. Quindi questo, diciamo, effetto boomerang ci può essere. Quanto è aumentata in quest'ultimo periodo la leva psicologica, la molla dell'offerta? Ma mi sembra che sia diventato effettivamente molto importante. Sappiamo che per il consumatore, diciamo, modificare il suo modello di spesa è una specie di sconfitta psicologica, no? Quindi dover rinunciare dei beni a cui si era abituati è molto faticoso dal punto di vista psicologico, è proprio una frustrazione. Quindi si cerca comunque di consumare gli stessi beni, magari accontentandosi di limitazione di prodotti low cost, di prodotti al discount, sfruttando tutte le possibilità che ci sono, ma cercando di avere comunque gli stessi beni. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Crisi o non crisi, rivela una ricerca Lewis PR, l'abitudine in via d'estinzione per le feste di Natale è il caro vecchio biglietto inviato per posta. Solo l'1,3% degli italiani dichiara di preferirlo a SMS, mail, Facebook e auguri telefonici. Avete ascoltato il reportage di Maria Luisa Pezzali sui consumi in Italia, seconda edizione Italia in Controluce. Torniamo domani 6:30 a Radio 24.